lavorare che trovi di trovare lavoro come ci deve. Beh, è un mondo ingiusto, è un mondo ingiusto. Ah, Luca, Luca ci sei. Poi l'altra. Stai attento, l'altro microfono. L'altra che mi hanno fatto, cazzo, che gliela voglio far pagare. Se fosse vera la cosa, ancora non ho capito se fosse vera. Che cacchio tu mi hai aggiunto da noi il negozio e ha detto, cioè, proprio cattiveria, cattiveria al massimo. Ma te le immagini? È giunto da noi, è giunto Ghiso, e ha detto che cacchieduno, ha detto cazzo che la sera non tornava nei ricordi, ma che di cosa si fa vedere di me, sto parlando, ciò, faccio un vedermi in corpo, faccio, tornerò in corpo, meglio non farmi girare le palle di quel periodo, perché, ho le mani in forma, mamma mia, di strangolare cacchieduno, ciò. Ma cose da dire sono cose da dire, sono, che non ho mai fatto una cosa del genere in vita mia, non me la sognerei mai di fare una cosa del genere, ma sono cose da dire. Ma tu lasciali perdere, le persone sono cattive, a volte lo fanno a buon buco, lasciali bellissimo. Cazzo, quella è una cattiveria grossa, perché secondo con chi lo dice, che magari mi voglia travagliare, cazzo non mi fanno lavorare, ma è cosa che ho il sospetto, c'ho il maggio rubire il coito, maggio, c'ho il rubire il corpo, ti giuro. Io le ho detto, guarda che se continui a dire una cosa del genere ti denuncio per calunnia, perché se tu lo stai dicendo adesso, io non lo so, nessun altro tranne che la te. No, il problema è che l'ha detto con il mio principale, l'ha detto. E stai, chi tu mi ha detto, non dire niente, ma me l'hanno detto a me, me l'hanno detto. Ma buonasera, date i soldi. E mi ha detto chissà cosa. Allora come te, cazzo, mi sono fatto di me, come te l'ho indemoniato la sera. E sono tornato a casa, non avevo visto manco la carriera, talmente ero nervoso, ero. Cioè, chissà molto, cazzo, di poco non la scoppio, scendendo via la porta. Talmente ci avevo, poi quando c'ho il cazzo girato, cioè, mi sono dovuto sfogare così, cazzo, ci sono passato tutta la mia, un malato di mente, cioè, cos'è che guidando? Nervoso, un nervoso addosso, cazzo. Vabbè, cioè, l'hanno detto tramite quella persona là, cioè allora c'è stato un tramite, ma ti sembra la cosa giusta, ti sembra? Ti sembra normale, che non l'ho mai fatto in vita mia, non l'ho mai fatto. Brutta bestia di merda, non ho mai toccato un soldo, quando c'è, e se mi serve qualche cosa l'ho sempre chiesto, perché sono una persona come si deve, ma tanto hanno visto diciamo, il personaggio, quindi chi l'ha detto veramente sa il personaggio, quindi non si preoccupano più di tanto. Tanto vanno a lasciare le ricevute quando fai, quando porti le bombole, non ci avrà il coso della ricevuta che rilasci. Ma certo, no, non è quello, no, potevamo avere i conti, nel senso, certo che lascio le ricevute, ma sto scherzando. Cioè, poi sono tutte contate, i soldi sono tutti contati, e li fuggi. Dove fuggi? Ma anche quando lavoravo là, io ogni tot di ore, ma se c'è molto lavoro vado a scaricare i soldi, non li tengo io in tasca. E tu, magari ti devo dire che non c'era il tanto per tenere la gente perché non stava guadagnando tanto, capito? Quel senso lì l'ha detto, magari l'hanno frainteso. No, non torna nei conti, è una cattiveria, non so cosa da dire. Non torna nei conti, vuol dire che io non me ne curava, compreso. È diversa la storia. Ma come fai, scusa, se fai le ricevute come fai a fregarti i soldi, scusa? C'è poco da fregare, perché ogni bombola che consegni fa la ricevuta. Gianni, per la cattiveria è quella. La cattiveria l'hanno detto a gennaio, l'hanno detto. La cattiveria è quella, per tu pur di non farti lavorare, la gelosia, a quello. Ma a volte la gente dice cose che non sono vere, ma non dare questa volta quello che ti dice la gente. Tu aspetta che ti dica una cosa del genere e poi dice, adesso fate la denuncia. perché io non ho messo più famiglia, anche perché non ho la possibilità di farlo, come faccio? Sono gente cattiva già, gente cattiva ombre sono. Sono gente molto molto molto cattiva già, purtroppo. Sì, ma le persone quando dicono una cosa devono anche dimostrarla, Comunque sono qua, dai, che stavo controllando il cane, che sono accorto che sopra la schiena è tutta piena di croste. Sì. E come mai? Non c'aveva qualche dermatite? Sicuramente c'avevo un po' di dermatite. L'hai portata? No, la devo portare già, se domani, domani dovrei ci dovrei riuscire a portarla. Vabbè, comunque giace bene di radio, è bella compresa. Va bene, sì. Sì, va bene. Va bene. Sì che va bene, adesso sono con il cover, sono. Tra un po' Gianni, la differenza, aspetta. Se non mi viene male, aspetta un attimo. Ho il cavo corto, ho il cavo del... Allora, così segnale quanto è. Prova che ho messo gli occhiali. Da così a così, c'è differenza. Il secondo passaggio non l'ho visto. Allora, guarda, da così a così, c'è differenza. No, è uguale. Ma non c'è differenza. Ma vuoi vedere? L'assorbimento nell'alimentatore. Se lo aumento sale l'assorbimento. No, da me no, perché io non me ne accorgo che siamo vicini e quindi non me ne accorgo. Ma quanto c'è l'assorbimento? 20 qua a fondo scala. C'è una bella differenza. Per me a fondo scala la prima, a fondo scala adesso. Ah, ok, anche tu e Antonio accendete tutti i letti. Dopo, vabbè, io sono un pochino più lontano, quindi me ne accorgo. Ci sta a me che non si può entrare. Però non so manco quanti fate da. Basta andare su internet e non vedi quanti fate da. Ma con Google metti la sigla e ti dà tutto. Capo, sicuramente arrivi più forte, arrivi più perché siete a Monte Rosello. Sicuramente, non lo so. Non so se arrivo più forte io o più forte Luca. Questo non lo so. Non prova. 9-3, 9-3, 9-3. Fai avete lo stesso segnale. Lui è al Monte Rosello, io alla Latte Dolce. Vabbè, non so la distanza, come... Io rimango in mezzo fra i due, quindi è normale che arriva a questo stesso segnale. Capito. Ho detto, io rimango in mezzo fra i due. Voi siete uno da una parte, uno dall'altra, ma siete proprio, io sono in mezzo, quindi vi prendo tutti e due allo stesso modo. Sì, sicuramente sì, magari uno un po' di più, uno un po' di meno, ma poco cambia. Mia Daria, non ne ho idea quanto c'è da me a casa tua. Antonio, ma hai visto la nuova legge? Che adesso non puoi prestare più la macchina a nessuno. Devi avere un permesso per poterla prestare. Ma che è questa minchiata? C'è la legge su internet. Sì, la paura, io so che sono minchiata. Mi avevo dato un permesso, non l'avevo compreso. Se la potevo dare adesso a mia cognata non ve la posso dare, non ho capito io. E che cazzo di permesso devo fare? Né amici né parenti, non lo puoi dare a nessuno. Se non c'è questo permesso, così c'è scritto e quindi ti sto dicendo. Poi se sono male ti sto dicendo. L'avevo letto già un po' di tempo fa, sono minchiate sono. Ma tieto mio hermano, se la scusate l'isola della Sardina, adelante. Che scusi, ho con un Santiago del 7 e una radio del 4. Avanti mio hermano, la mia città è Sassari, nord di Sardegna. E basta, No, è scomparsa proprio adesso. Sì, ma come fa? Devo tappare lo squarcio per sentirlo, ma... No, ma io ce lo sentivo bene, Santiago 4 radio 7, ma Santiago 7 radio 4. E anche io lo sentivo così, lo sentivo uguale, però poi mi sembra, poco fa mi stavano sblatterando sull'11. Ehi, che c'è questo qua, stava arrivando a fondo scala. Luca, Ugariello. Aspetta, mi sto vestendo già, che devo andare a prendermi un po' di pizzette da bollire. Cosa ti stavo dicendo, non ci stai più andando su Starbank. Ui. Ti ha già stufato. Sì, è un po' strano come programma, come app. sì, non è strano, bisogna conoscerla. Se piano piano la conosci, poi ti piace. E non finisce mai di scoprire, ogni tanto ne scopri una nuova di cosa io. O comunque da 20 watt questo apparecchio. Fa da 1 watt a 20 watt regolabili. K-K. E copre fino ai 28 MHz. Bene, bene. Mi ho trovato un video per vedere quanto arrivi. Vabbè, questi tutti elettronici non mi piacciono, con mille, mamma mia, cioè con mille menu, sotto menu. No, mi piacciono, la verità, io ho questo qua digitale della Cobra ed è bellissimo, dico la verità. Ma quello lì di digitale c'ha poco, quello che c'ha Luca si può aumentare di watt, si può regolare la radio, si possono fare un bel rotto. Così vuole l'apparecchio? Questo costa 308 euro. Devo essere professionale. Chiappa. Mi ho mandato un video a bancare. Eurobar. Ah, da Toledo. Ehi. Cosa c'è? Leonardo Masia, c'è. Carocchi. E ne fa un bel quella roba di lui. E fa mai sempre visibile. No, l'altro giorno c'erano un gruppo di Sassaresi, un bel bravo, erano un bel bravo. Poi ha cantato un tipo molto anziano, e ne cantava benissimo, molto bravo anche quello, c'era una voce, cazzo. E c'era roba Sassaresi, io pensavo c'era Carocchi, abbiamo beccato la musica Sassaresi. E poi mi interrogavo, diceva, la conosci Issa? Ma lui, cioè, lì, non, sicuramente non le rompe più le balle nessuno lì, perché là a Cosangio c'aveva un bel problema. Lo so, c'aveva un poliziotto che abitava sopra, gli ha dato problemi in me. Magistrato, poliziotto, sai, tutti i colori ne combinavano, niente veniva una. E cosa ne poteva combinare, se lui rispetta gli orari? No, oh, ti sto dicendo che città di campo in cui l'hanno fatto schiattare, hanno fatto il modo di andare a Sinni, ogni giorno la pattuglia, ogni giorno. Comunque adesso stanno ampliando e Antonella mi ha detto che stanno ingrandendo, che fanno, la fanno un po' più grande. Boh, non lo so com'è, non ci sono mai andato io. Ma lì in campagna non gli rompe le balle nessuno, là l'hanno fatto schiattare, andavano pure a furare. Già lo so, sì, so tutto, l'ho visto su internet, che li hanno visti, li hanno beccati. Le telecamere li hanno ripresi. Sì, già lo so già. Ma ha fatto bene andarsi in cibo e fuori dalle balle, tranquilla lavorando. Lo so, ma lì se non conosci gente sei fuori mano. Vabbè che lei già l'hanno già conosciuta a Sassari, quindi non fa altro. Ma la panetteria di Rosello non ce l'ha più. Hai visto Antu? 9.30 arrivo. Ho detto, io dico Valli, anche Gianni. La so giro anche a Gianni, aspetta. Però aspetta. No, te accendo tutta già. Già, guardate il video. No, il video. No, accendiamo una notte, da chissà. Luca. Gaba gaba. E io so, guarda Valentino Muglia. Cavazzappe, l'hai mai visto? Non capitolo. Cavazzappe, l'hai mai visto Valentino Muglia? No. Allora, io ho visto al quadrato, è uno che ha praticamente l'AP50 con motore del Suzuki 400, del Kawasaki 400. Praticamente fa le acrobazie con la moto, fa su due ruote, poi gli ha messo il calcio e fa parola, su due bette. Magari Kawasaki. Ma dove, al circo? Sì, no. Allora? Io Valentino Moe, Claudio Rizzano. Ma te parlate in due non si capisce niente, ho già detto già. E fa il spettacolo in all'aperto. Già c'è il rumore, ho capito. Fa gli spettacoli all'aperto. Capito? No, c'è un rumore sotto. Io? rumore c'è tanto. Adesso no, prova. Guarda, vedi, 1, 2, 3, 4, 5. Aumento, la sentirai, aspetta che la spegni. No, ripeti, dai, ripeti cosa stavi dicendo. Ho detto che fa gli spettacoli all'aperto, ha quadrato, ha fatto, e li fa all'aperto così, c'ha questa pecinape 50, quindi quella leggera, dietro l'ha fatta tutta a motore, c'ha il motore di un Kawasaki dietro. Ma li fa gratis o con pagamento? No, quando l'ho visto io era gratis, non si pagava nulla. Qua è coso, Kawasaki, no? Io. Guarda, basta che tu mi scrivi Kawasaki e dubito. Ma il tema moglie è quello, dove stanno lo scrivi Kawasaki? Su Google. Io mi stavo. Anche il padre, l'ha mai visto il padre, zio Peppinetto? Io lui non l'ho visto, lo conosco io. Zio Peppinetto era un bravo meccanico. Ci ha fatto tutto il motore della 500, adesso mi va 85 anni, mi pare, ci ha rifatto il motore della 500. 26 messa. Della 126. Ma questo qua è Valentino, si chiama? Valentino Mui. E della Sassari? È venuto a Sassari tanto tempo fa, io l'ho visto. Però gira per i paesi, fa le feste, capito? Ah, capito, capito. Fa lo spettacolo per trattenere la gente, là. Però si intende, ci ha fatto una carriera con un motore, ci ha fatto, è un bel inventivo, ce l'ha fatta lui una volta così. Ai, ai, ai. Pippinetto è bravo, me. Ai suoi tempi sicuramente è un bravissimo meccanico. Non è proprio Oristano, sono vicino a Oristano, sono. Non mi ricordo adesso, cavolo, dov'è. C'è Oristano, quella zona. Sì. Però non mi ricordo adesso dov'è proprio. Padre di Busacchi. Busacchi. Però in gamba, ho visto quanto è preciso facendo le cose. Io che l'ho visto, no? E da mezzo fa il gabbo, però il padre già... Ai suoi tempi sicuramente era un grandissimo meccanico. Ma anche lui gli dà i consigli, deve essere che anche lui è portato per quelle cose, perché il padre gli dà i consigli, dice no, non mettere questo, non mettere questo, che ti do. No, oh, che combo già andrà bene. No, lo voglio originale il pezzo. È fatto così. Sicuramente quando era giovane era un dritto, non sarà stato così, no? Ehi, ma anche adesso è prepotente, se qualcosa non mi vale lo dici. Già, lo so, già. Però ne fai tutti i colori, mi sono rimetto la parrucca. No, è bravo, è un bravo uomo. Del 1929 mi pare, no? Non lo so di che anno è, però... non lo so quanti anni hanno di sicuro non lo so, però è anziano. Più 80, forse del 30, non mi ricordo adesso. Non mi ricordo molto bene. Già lo so, sembra sua persona è brava. Pensate Pinelli mi sa molto. E fa di chi poi ha deciso la moto. Che l'ho pensato anch'io, ma è bravo portandola. Ci mette la testa fuori, un pazzo, se ci scende sopra, si mette seduto davanti, non c'è il vetro, si mette seduto davanti e guida con le mani all'indietro. E beh, lo fa spettacolo, fa. E una volta si è seduto una ragazza. E più di una mi ha abusato. Beh, ma io sono da Sassari, che è venuta a Sassari, ha abusato una bizzina dell'idea di Chisio. Riende era. Sei un pazzo, ma due ruote. Poi adesso ultimamente ha fatto una specie di bilico che lui sale su, ci sta giusto giusto con le ruote, ci sono i passaggi per salire la moto e poi come lui sale su il bilico scende verso l'altra parte e va in discesa, da salire a salire va in discesa, no? Perché il peso della moto la fa scendere. Capo. Allora domani andrà all'asilo o dorme? A mettere un casino che accende. Perché non lo stanno andando? No, perché c'è la congiuntivite, la sto curando. cioè tutti i malati ci bigliano l'asilo, se non ce l'ha uno ce l'ha l'altro. Ma non sono sicuro che se l'abbia preso l'asilo, perché sabato ha viaggiato, domenica ha viaggiato, e quindi se l'avrà pigliato in Cibre. A me non attendi più che sul coso. Sempre il solito sei gabbre. Faccialo. No, siamo andati a Olbia, poi siamo ritornati e ci abbiamo avuto questo problema. Non ho qualche colpo d'aria, ragazzi. Boh. Saluto questo cucciolacco, mamma mia, non è più gana, mannaggia, non ne ho più voglia. Stasera, chiama la bitta e va a far culo, non mi frega niente. Ehi, Antu, bisogna lottare la bitta, c'è poco da fare, non bisogna lasciarsi andare. Io mi auguro solo di trovare un lavoro buono, dove mi consenta a me e mio figlio di poterci campare il più bene possibile, di avere quello che desideriamo. Poi del resto non me ne può fregare da meno. Ebbe, il lavoro è una cosa essenziale, c'è poco da fare, questo lavoro lo fai nulla. E la salute soprattutto. Io farò di tutto per trovare un lavoro fisso, perché ne ho bisogno. Io e lui. E lei faccio tutto. Da tanto, siamo io e lui per il momento, perché no. Non ne voglio sapere da per nessuno, perché tanto. Sono gente che ti mangia di vina e basta. Okay. Ehi, dove stai andare quando ci sono le lezioni? Mi ha volantinare a chiedere i favori. Ma io ho chiesto, non mi è stato dato. Che se ne vadano a cagare. Perché una roba ce l'ho fatta. Se ne vanno a cagare pure quelle. Posso dare una persona che mi ha aiutato, boh. Ma no, niente di che. Cioè, ma sono buffonendo. Un uomo solo che si arrangia in questo periodo, grazie a me che sono andato a cercare, a chiedere e tutto. Sino oggi come oggi non ha mai avuto manco un euro in busciacara. Manco un euro qua, oggi come oggi. Ma tu mi hanno detto che anche la rete turbana stanno cercando gente. Lì entrano i farabutti, entrano. Come farabutti? Che sa chi mi ricusi? E allora? Gente di merda, gente schifo, che fa schifo. Come ti posso dire? Che non vale nulla che non tu so. Non va, solo i farabutti le caculo entrano. Ma tu dai, ti devo lasciare che te non vuole scendere giù, dai. Ci sentiamo alle prossime. Ciao anche a te, Luca. Perché sta gridando? Ma perché ne combini? Madonna, oh, mi fate diventare matto. Ciao già. Ciao. Ciao, ci sentiamo a tutti, ci sentiamo.